L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti per questa puntata nella quale parleremo molto di mare. Mare da salvare, mare da pulire, mare da coltivare addirittura, e in chiusura di nanobolle. Quindi resteremo anche lì in tema di acqua. Iniziamo però con una ricerca presentata da IPPR, che è l'Istituto per la promozione delle plastiche da riciclo, Legambiente ed Enea. Una ricerca che è stata basata sulle indagini condotte nel corso dell'estate dai tecnici di Goletta Verde di Legambiente su due spiagge del litorale tirrenico: la spiaggia di Coccia di Morto in provincia di Roma e la spiaggia della Feniglia in provincia di Grosseto. Scopo: sviluppare un piano di riciclo per i materiali plastici che si trovano su queste spiagge e capire al contempo come sensibilizzare consumatori e imprese a fare più attenzione. Noi ne abbiamo parlato con Angelo Bonsignori, che è il direttore di IPPR, e Giorgio Zampetti, responsabile scientifico di Legambiente, e iniziamo proprio con lui. Abbiamo monitorato due spiagge in particolare, selezionandole in funzione della tipologia di rifiuti che erano presenti, ma anche delle pressioni che gravavano su queste spiagge, per cui una molto contaminata e una meno contaminata, e su questa base poi siamo andati a raccogliere i rifiuti plastici e fare tutti gli studi e le prove, grazie alla collaborazione con Enea, per avere i primi risultati sulla riciclabilità del beach litter. Questo è il termine con cui si indicano i rifiuti presenti sulle spiagge. Che tipo di plastiche sono state ritrovate su queste spiagge? Sugli oggetti presenti sono di nuovo purtroppo gli oggetti più frequenti che troviamo anche lungo le altre spiagge, per cui andiamo dai rifiuti provenienti dalla mancata depurazione, cotton fioc o altri oggetti che arrivano direttamente dagli scarichi e poi lungo i fiumi fino al mare. Abbiamo i rifiuti abbandonati lungo le spiagge, pensiamo alle cicche di sigaretta, accendini o rifiuti di questo tipo, bottigliette di plastica, e poi molti rifiuti che arrivano purtroppo dalla cattiva gestione dei rifiuti nelle aree urbane, che sono quindi rifiuti più disparati, imballaggi piuttosto che altri oggetti, che poi arrivano attraverso i fiumi o attraverso le mareggiate e vanno a depositarsi lungo le coste. Angelo Bonsignori è il presidente dell'Istituto per la promozione plastiche da riciclo. Benvenuto anche a lei. Buongiorno. State pensando a come riciclare quello che viene dalle spiagge o fare delle plastiche che una volta sulle spiagge abbiano impatti diversi? Guardi, l'obiettivo che si pone PPR, che promuove l'impiego di plastiche da riciclo anche post consumo, è quello di promuovere iniziative che possano avere dal punto di vista industriale solidità, stabilità e affidabilità, nel senso che vogliamo trasformare la filiera del riciclo in una filiera industriale vera e propria. Per questa ragione noi attribuiamo un valore fondamentale all'analisi delle frazioni merceologiche che sono state raccolte su queste spiagge, prima di tutto per metterle a confronto con l'analisi merceologica di quanto pescato in mare e vedere se c'è sovrapposizione tra le due frazioni. In secondo luogo, per valutare la frazione polimerica, allo scopo di affidarle ad industrie che possano ottenere dei prodotti da riciclo che non solo contengano, come fa oggi il marchio Plastica Seconda Vita, elementi qualificanti ai fini della percentuale di prodotti riciclati incorporati nel prodotto, ma anche dei fini delle prestazioni qualitative di questi materiali, che non devono essere più considerati di serie B, alternativi di bassa qualità a prodotti fabbricati con altri materiali, ma devono vivere un loro mercato, come dicevo, caratterizzato da qualità, stabilità e affidabilità. Dunque, due domande mi vengono spontanee. Se esiste questa industria che sa trasformare questo materiale e perché ancora si considera di serie B? Cioè, qual è l'impedimento per il quale non si considera un materiale di serie A? Guardi, consideri che oggi l'industria delle materie plastiche in Italia consuma tra i 5 milioni e mezzo e 6 milioni di tonnellate. Il 15% di questo materiale proviene già da circuiti di riciclo. E noi stimiamo che la potenzialità possa essere raddoppiata, cioè possiamo arrivare ad impiegare il 30% di materiali provenienti da circuiti di raccolta differenziata. Quindi la potenzialità sicuramente esiste, e un obiettivo che ci siamo dati con Legambiente e con Enea è quello di istituire un tavolo permanente per il riciclo di qualità, nel quale esaminare proprio il problema a cui lei faceva cenno: quali sono i vincoli tecnologici, quali sono i vincoli non tecnologici, quali sono gli ostacoli economici che oggi i prodotti da riciclo ancora incontrano sul mercato, e verificare quali sono le condizioni per migliorare la ricettività di questi manufatti, indipendentemente dal valore economico incorporato. Per Giorgio Zampetti, sul Tirreno, sull'Adriatico, la situazione è identica, visto che voi avete appunto goletta verde che tutti gli anni solca i mari? Sì, purtroppo la situazione è abbastanza invariata. Dico purtroppo perché lungo le nostre spiagge e anche, diciamo, come nello specchio di mare, nei mari italiani, i rifiuti presenti sono molti, più o meno con le stesse tipologie. Quello che abbiamo notato è che tra il Tirreno e l'Adriatico, mentre nel Tirreno la componente derivante dagli scarichi non depurati o dalla cattiva gestione dei rifiuti è più alta, invece sull'Adriatico prevale per esempio la fonte legata all'attività della pesca. Questo poi dipende anche molto chiaramente dalle zone, o con questa attività di ricerca, e ci auguriamo anche con un'attenzione da parte delle aziende riguardo le possibili soluzioni sul mare Dritter, ci auguriamo che si possa fare un passo in avanti, perché noi siamo convinti che quei rifiuti che fino ad oggi vengono visti esclusivamente come un problema, se invece si riesce a inserirli in un'attività di riciclo, cioè comunque un interesse anche legato alla loro rimozione, sicuramente si possono agevolare queste attività. Senza dimenticare però il primo passaggio fondamentale che abbiamo ricordato anche nel presentare questo studio, che è quello della prevenzione e dell'evitare che i rifiuti chiaramente finiscano in mare sulle spiagge. Uno dei modi per salvare il mare è quello di controllare bene i fiumi, perché almeno nel Mediterraneo l'80% delle plastiche arriva dai fiumi. Una proposta concreta per acchiappare le plastiche prima che arrivino al mare è stata presentata a Ecomondo, la fiera della Green Economy di Rimini, da Castalia, che è una società consortile italiana che raggruppa 35 aziende specializzate nelle attività marittime, nell'antinquinamento marino e nel pronto intervento in mare. È intervenuta ad esempio di recente all'isola del Giglio per il naufragio della Concordia. La sperimentazione del sistema ideato da Castalia sarà sviluppata sia sul Tirreno che sull'Adriatico, e noi ne abbiamo parlato con Lorenzo Barone, che è il direttore tecnico. Quello che abbiamo noi brevettato e stiamo testando è un sistema rigido. Consideriamo una sorta di barriera, vera e propria barriera, la cui lunghezza varia a secondo della larghezza del corso d'acqua. È una barriera mobile che è inclinata rispetto al fronte del fiume, con una canaletta. Il materiale che viene a urtare con questa barriera, a seconda la differenza di peso specifico, quindi andiamo a immaginare delle bottigliette di plastica che hanno un peso specifico ridotto, vengono convogliate tramite questa canaletta che fa parte della barriera, che è inclinata rispetto al fronte del fiume, vengono convogliate su un argine. Il materiale con un peso specifico maggiore, quindi chiamiamolo semigalleggiante, urta sempre con questa barriera, ma riesce a passare sotto la barriera. Ciò che cosa significa? Che quindi si è andato a determinare una selezione, e nell'argine si viene ad accumulare quindi la maggior parte di rifiuto galleggiante, che è plastica. Ok, questa barriera quindi va da parte, da riva a riva del fiume? No, è inclinata, quindi significa che comunque non si vincola, non si limita anche l'eventuale navigabilità del fiume. Di solito è come se noi mettiamo la spina di pesce, è come se ci fosse due di queste barriere messe a una distanza di 150 metri da di loro a spina di pesce, quindi significa che... Posso dire un biliardino un po'? Un flipper, l'inclinazione si modifica rispetto al fronte del fiume, l'inclinazione viene modificata a seconda delle caratteristiche del fiume, quindi a seconda della stagionalità, a seconda della velocità, della portata dell'acqua. maggiore, andando a modificare questa inclinazione, quindi si evitano anche problematiche che possono essere quella della rottura e si determina quindi un'ottimizzazione per la selezione e per la raccolta. Ok, quindi apparentemente è un sistema, diciamo così, semplice, nel senso che bisogna metterlo in pratica, mi sembra più leggera rispetto anche più tollerabile da un punto di vista dell'impatto visivo, ambientale e così via. Assolutamente, è un sistema semplicissimo realizzato in polietilene e abbiamo fatto anche, lo studio è stato elaborato non solo tramite calcoli di idrodinamica, quindi anche di ingegneria idraulica, ma servendoci anche della collaborazione di ecologi, che hanno potuto verificare l'impatto nei confronti della fauna e della flora. Noi non andiamo a dare fastidio a nessuno, l'ambiente naturale rimane salvaguardato. Dove la farete questa sperimentazione? Noi andremo a testare un fiume in Adriatico e un fiume sul Tirreno, in modo tale che cercheremo di, con caratteristiche logicamente di portata ben differenti, e la sperimentazione deve essere sempre fatta almeno in due stagioni differenti, quindi diciamo che una stagione, un periodo che è quello autunno-inverno e un periodo che è quello primavera-estate, per renderci conto quindi di quali sono le criticità e quindi andarle a ridurre il minimo possibile. Nella prossima stagione, nei prossimi 2 anni, entro quando sarà questa sperimentazione? Io mi auguro che prima della fine del 2018 noi potremo dire siamo bravi, ci siamo riusciti, il nostro sistema è a disposizione. Ora dobbiamo fare necessariamente una pausa, ci ritroviamo e continuiamo tra pochissimo. Assenti ma a loro modo presenti, impegnatissimi ma che poi si impegnano ad esserci, attenti ma tanto distratti, volenterosi ma un po' impacciati, autorevoli ma anche giocherelloni. Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo, è padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro. Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri perfetti e né padri imperfetti. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia, la domenica alle 11 su Radio 24. Matteo, e le mamme? Per fortuna che ci sono. L'altro pianeta. Di nuovo un buon pomeriggio. Di mare abbiamo parlato nella prima parte, di acqua continuiamo a parlare in questa seconda, con due aziende che sono state invitate a partecipare di recente al Festival per la Terra che si è svolto nel Principato di Monaco. Ne parlammo qualche settimana fa per le fattorie sottomarine del progetto Orti di Nemo, e potete riascoltare la puntata come sempre in podcast volendo. Oggi parleremo con produttori di biocarburanti da alghe e, sempre in tema di carburanti, specialisti di nanobolle come additivi ai carburanti. Sono entrambe soluzioni per ridurre l'impatto ambientale dei carburanti fossili, ma ciascuna ha la sua declinazione. Michael Magri è direttore generale di Tere Group. Cosa fa con le alghe a Modena? Ce l'ha spiegato lui stesso. Noi abbiamo cominciato nel 1982 a lavorare sulle microalghe e abbiamo sviluppato un olio che abbiamo poi trasformato in gasolio tramite una tecnica che si chiama transesterificazione. Questo gasolio qua poi l'abbiamo testato assieme all'Università di Modena e Reggio Emilia presso il loro banco prova nel Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari su dei motori perfettamente di serie, per fare una comparativa tra un motore di serie e un motore con il nostro additivo. E quello che abbiamo notato è che anche con piccole quantità di additivo siamo riusciti a ridurre le famose polveri sottili di cui si è parlato tanto anche in queste settimane, le famose PM10, siamo riusciti a ridurle fino anche del 50%. Ah, solo grazie a questa addizione, diciamo? Certo, sì. Allora, però questo appunto è un lavoro partito da lontano che voi avete già sperimentato, ma cosa manca adesso per poter proseguire, diciamo, e rendere la cosa fruibile? Allora, per renderla fruibile bisogna cominciare a realizzare degli impianti produttivi che producano questa tipologia di olio vegetale. Noi abbiamo già cominciato a costruire il primo impianto produttivo e abbiamo già 7 autorizzazioni in Italia per poter costruire questa tipologia di impianti. Questa tipologia di impianti è un'attività che produce questo olio vegetale. Questo olio vegetale poi dopo andrà trasformato dalle raffinerie in gasolio. Questo gasolio poi, nella percentuale che ogni compagnia petrolifera deciderà, potrà essere miscelato al gasolio che si vende commercialmente alla pompa di carburante. Ma che microalghe bisogna utilizzare e dove diciamo le coltiviamo? Allora, noi abbiamo sviluppato una tecnica di coltivazione a circuito chiuso, qui non in vasche aperte, ma perché l'Italia e l'Europa non ha il clima ideale per questa tipologia di coltivazione, ma queste coltivazioni sono in grandi acquari verticali all'interno di serre chiuse dove io posso andare a controllare la temperatura. Grazie al sole e all'anidride carbonica che utilizziamo come nutriente, le alghe crescono, sviluppano e assorbono questi nutrienti che trasformano in olio, in liquidi. Poi con delle macchine di sistemi di estrazione a freddo spremiamo come se fosse olio d'oliva queste alghe e estraiamo quest'olio qua. Quest'olio qua ha queste caratteristiche di essere molto interessante dal punto di vista dell'utilizzo nei mezzi di trasporto. Ecco. E dov'è una fattoria, diciamo, di queste? Allora, noi ne abbiamo una dimostrativa a Modena, piccola, una intanto dimostrativa, e ne stiamo costruendo uno in Lombardia e altri distribuiti nel territorio italiano, in particolare nel sud Italia, in Puglia in particolare. Da un punto di vista di tutte le autorizzazioni, voi siete già in pista, me lo ricordava anche lei, che avete chiesto una serie di autorizzazioni, che via via stanno emanando questi decreti, quindi anche da quel punto di vista lì diciamo che siamo abbastanza al passo o siamo indietro secondo lei? Ma io direi che siamo indietro, perché la normativa dice che entro gennaio 2018 tutti i distributori di carburante dovranno avere una percentuale, in particolare in Italia, minima dell'1,2%. Quindi ancora non c'è quantitativo di olio vegetale, in particolare da microalghe, sufficiente per poter accontentare la richiesta nazionale e nemmeno quella europea. Ecco, quindi per questo che bisogna accelerare nella costruzione di questi impianti produttivi per poter produrre questa tipologia di oli. Da microalghe o anche in generale di altri tipi di oli? Devono essere oli, secondo la normativa europea, devono essere oli di terza generazione, cioè non oli alimentari, quindi non olio di colza, non olio di palma, ecco, non olio di mare, ma devono essere oli come non so, i grassi animali oppure gli oli da frittura esausti, quindi quegli oli che non possono avere un uso più alimentare ma possono essere utilizzati tranquillamente come energia. Dalle alghe per biocarburanti di Tere Group alle nanobolle di Avchem, una startup di professionisti di lunga esperienza che tra le sue attività ha soluzioni per la riduzione dei costi economici ed ambientali dei processi di combustione. Ma non fa solo quello e ce lo dirà Benedetto Costa Broccardi di Avchem. Il principale processo che abbiamo è un processo di nanoemulsione di acqua nei carburanti viscosi, che viene utilizzato principalmente, in teoria le applicazioni sono in qualsiasi motore a ciclo diesel, qualsiasi caldaia, qualsiasi turbina, abbiamo fatto test anche con grandi aziende, ma fondamentalmente oggi l'uso principale in Italia è nei piccoli generatori di corrente, quelli sotto il megawatt, che utilizzano oli vegetali e che hanno delle difficoltà sia di costo che di emissioni. Quello che noi riusciamo a ottenere nanoemulsionando acqua, e potrei spiegare tutti i vantaggi della nanoemulsione rispetto a un'emulsione, ma l'esempio banale che uso sempre è quello della crema solare, che 30 anni fa era una cosa appiccicosa, oggi è un liquido che si assorbe rapidamente perché è una nanoemulsione ed è stabile. Noi otteniamo fondamentalmente un risparmio che può oscillare tra il 3 e il 7%, dipende dal motore utilizzato, ma questo lo facciamo ottenendo anche un abbattimento di emissioni significativo su NOx, particolato e fumo, che va dal 30 all'80% a seconda degli inquinanti, e un leggero risparmio anche nell'emissione di CO2, cosa che riteniamo sia un processo molto positivo per, in generale per l'ambiente. Quindi questo grazie alla nanoemulsione di acqua? Assolutamente, banale nanoemulsione di acqua, ma è una roba molto vecchia inventata dagli americani durante la guerra per allungare la performance dei loro bombardieri, ma anche utilizzato da tutti noi quando prendiamo un aereo in estate, perché i jet mescolano acqua in decollo per aumentare la potenza e riuscire a decollare quando fa molto caldo. Noi semplicemente l'abbiamo portato nei motori a combustione interna in maniera abbastanza efficace, cosa che nel passato non si è riuscita a fare. E questo è un aspetto che riguarda il mondo della combustione e delle auto. Ma c'è tutto un altro lavoro anche. L'altro aspetto nasce dalla, se vuole, l'esperienza è la stessa. Noi abbiamo una lunga collaborazione con un professor, con il professor Ibrahim Manat della Alzheimer University, che è un grande esperto di microbiologia, di microorganismi per l'ambiente, e in generale bioremediation, cioè l'utilizzo dei batteri per eliminare l'inquinamento, con cui abbiamo fatto molti lavori nel passato. Lui, vedendo le nostre macchine, le performance, le capacità di quantitativi trattati, ci ha proposto di modificarle, cosa che abbiamo fatto, per produrre nanoemulsioni di aria, ovvero creiamo delle nanobolle di aria all'interno dell'acqua. Fondamentalmente, quando si scende sotto una certa dimensione, noi per convenzione usiamo i 380 nanometri, che è la lunghezza d'onda della luce visibile, riesce ad avere un comportamento diverso dell'aria, che anziché salire alla superficie segue i movimenti browniani, ovvero si muove secondo gli urti tra le particelle, e questo fa sì che l'aria, anziché salire alla superficie, si distribuisce anche verso il fondo e riesce ad arricchire tutta l'acqua di aria. Aria significa ossigeno, ossigeno significa ridurre la richiesta chimica, la richiesta biologica di ossigeno, che sono l'indice dell'inquinamento normalmente utilizzato, COD e BOD. E questo con vantaggi che possono essere spesi in vari campi. Guarda, il vantaggio sono principalmente è quello di riuscire a rivitalizzare i batteri che in un'acqua eutrofica, cioè dove ci sono troppi nutrienti, tendono ad andare latenti, e i batteri svolgono un lavoro importante di distruzione degli inquinanti, siano essi piccole percentuali di idrocarburi che anche organismi negativi. Ovviamente l'ambito di applicazione è ovunque ci sia un problema di COD, quindi può essere campo ittiologico, quindi per gli allevamenti di pesce. Ovviamente l'uso più normale che si può ipotizzare è quello dei sistemi di trattamento delle acque, dove già viene aggiunta aria e viene aggiunto ossigeno con dei costi molto elevati, ma con molto inferiore efficacia, perché le bolle sono molto grosse, 2, 3, 4 mm. E l'ultimo uso è nelle acque stagnanti, possono essere questi stagni, laghi, porti, cioli, un sistema che ha oggettivamente un solo costo, quello della corrente elettrica per far girare un motore, perché non c'è nulla da aggiungere. Sulle nanobolle ci dobbiamo fermare, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora, da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto.